Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Di tante che ne ho viste durante il mio viaggiare in treno riguardo all'impiego del tempo libero durante il viaggio, ho visto persone con computer di antica generazione ancora giocare con il solitario di Windows 95, ho visto persone guardarsi il filmettino zozzo, ho visto persone ascoltare musica, ho visto persone telefonare, ho visto persone prendere appunti, ho visto persone russare, ho visto persone dormire, ho visto persone mangiare cose schifose, ho visto persone togliersi le scarpe, ho visto persone infilarsi le dita nel naso, ho visto persone insidiare altre persone, ho visto persone insidiate da altre persone. Non avevo ancora mai visto una persona che prega durante il viaggio. È bello vederlo perché è un comportamento dissonante rispetto alla regola, originale nel suo essere un comportamento tradizionale, forse arcaico. Il signore vicino a me prega, ha un libro di preghiere, lo legge, compito, non invasivo, non disturba nessuno, è una persona educata, è una persona che sta al suo posto ma prega. Ho un libro di preghiere e non posso fare a meno che domandargli cosa ci sia dietro col suo comportamento così singolare. Da quando è che è andato in Germania? Io sono andato nell'86 e sono andato nell'86 perché sono stato inviato da Santo Giovanni Paolo II come missionario in Germania per dare testimonianza. Come missionario laico però? Laico, sì, sono sposato con la mia moglie e abbiamo 11 figli. 11 figli, cioè il Papa gli ha detto proprio vai in Germania a fare apostolato. Esatto, in un'udienza privata ci ha inviato ad Amburgo, una città molto difficile, per formare lì una comunità cristiana. Beh, Amburgo è una città, ci sono tutte le strade della prostituzione, una città piena di peccato. Eravamo in quel quartiere. Ah, poi San Paolo, il quartiere San Paolo. Il quartiere di San Paolo. Ah, il quartiere delle prostitute. Esatto. Com'è stato il suo primo impatto? Quanti eravate? Quanti missionari eravate? Eravamo io e mia moglie insieme a un sacerdote e a un ragazzo non sposato. Quindi la vostra missione era, diciamo, evangelizzare la strada, il quartiere della prostituzione di Amburgo? Sì, il quartiere sì, più difficile di Amburgo. Ma avete trovato subito casa a San Paolo, subito? Non abbiamo trovato subito casa, siamo stati aiutati dal parroco che ci ha trovato due appartamenti nella stessa casa e avevamo un appartamento sotto, poi facevamo le scale di casa e andavamo in un appartamento di sopra. Sopra dormivamo e sotto vivevamo. Immagino che intorno a voi c'erano tutti altri appartamenti con prostitute, con situazioni molto difficili. Esatto, ecco. Esatto. Com'era la vostra giornata? Mi racconti il suo primo impatto. Qui immagino arrivate lei, sua moglie, persone piene di buoni sentimenti, mandati dal Papa, circondati da donne in vetrina, di tutto si vedeva, penso. Siamo arrivati lì che avevamo 7 figli a quel tempo, nell'86. E li avete portati tutti con voi da Roma? Certamente, certamente. E quanti anni avevano? Piccoli ancora? Erano piccoli, sì. E allora la prima figlia è nata nel 76. E quindi anche i bambini hanno visto quello spettacolo indecoroso appena sono arrivati? Certamente. E come certamente avete spiegato ai bambini che quelle persone dietro le vetrine stavano lì per cose sbagliate, ecco, diciamo? Ma ai nostri figli avevamo spiegato la missione che avevamo, che era quella di portare un nuovo tipo di vita, un nuovo tipo di cultura, portare quello che aveva salvato anche il nostro matrimonio, perché anche come il nostro matrimonio, come tutti i matrimoni, ha avuto le sue crisi, e è stato salvato da questo incontro nella fede con Gesù Cristo. Al tempo della crisi quanti figli avevate al tempo della crisi? Due. Due. Ah, beh, però la crisi è passata, avete fatti altri cinque prima di andare nel quartiere delle prostitute. Esatto. Diciamo insieme, come avete cominciato a lavorare in questo quartiere? All'inizio non sapevamo come fare, però già avere così tanti figli era uno spettacolo. La gente si chiedeva come mai, perché. Allora venivano, ci chiedevano. Io avevo una foto col Papa e quindi approfittavo di ogni occasione per mostrarla. Allora mi chiamavano il prete con sette figli in quel quartiere. Lei andava in giro per le vetrine dove stavano esposte le prostitute con tutti i bambini? No, approfittavo quando andavo al supermercato, alla cassiera, gli dicevo che eravamo là inviati dal Papa e gli facevo vedere la foto. Poi la voce si passava. Per esempio, una persona dopo poco tempo ha suonato il campanello e mi ha detto: io voglio entrare in convento. Io ho detto: vieni avanti. E abbiamo incominciato con lui un dialogo. E così lui ha chiamato un amico e l'amico l'altro amico. In fondo la cosa è nata così. Quindi avete fatto una comunità da sola, praticamente? Spontanea. Una comunità. Quanti eravate poi crescendo? Quanti siete diventati in comunità? Allora, prima ci trovavamo sempre a casa mia. Io, la forma delle persone era di invitarle a cena. Quindi passavamo le cene raccontando la nostra esperienza, raccontando come vivevamo. E quando avevamo 7 persone, 8 persone, abbiamo affittato un negozio vicino che vendeva lane. Era chiuso, c'era sulla porta una pecora nera. E abbiamo cambiato la scritta, abbiamo messo una pecora perduta e in questo negozio l'abbiamo adattato un pochino a una sala dove ci trovavamo per pregare, per parlare, per scambiarci le esperienze. Diciamo il simbolo della redenzione delle prostitute era la pecora perduta. È così, sì. E abbiamo iniziato da 7 e siamo arrivati fino a 30 più o meno. E cosa facevate quando eravate lì? Pregavate, parlavate, cosa facevate? Sì, intanto sempre si iniziava con una preghiera, poi ci scambiavamo le esperienze, loro ci raccontavano la loro vita, noi raccontavamo la nostra e gli dicevamo sempre che con Gesù Cristo la vita può cambiare, può diventare bella. Ma parlavate in tedesco? In tedesco? Avete imparato il tedesco nel frattempo? Abbiamo dovuto imparare il tedesco, anche se io lo parlo molto male. Ma comunque riusciate a farvi capire. Dove mi capivano. Ma quelli che venivano da voi erano persone già, diciamo, di buoni sentimenti, di buoni principi, o erano magari i clienti delle prostitute pentiti? No, allora quasi tutti erano dei protettori, alcuni. Erano protettori. Ah, beh, quindi era anche pericoloso, diciamo, come rapporto. Sì, ma noi non entravamo nella loro vita, perché noi non abbiamo mai fatto una legge che devono cambiare vita. Noi gli proponevamo la possibilità di una vita diversa. Like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Merged mistrust, love gone behind. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quanti ne avete salvati con, diciamo, questa filosofia della pecora perduta? Non lo so quanti si sono salvati. So che ancora qualcuno mi telefona. E qualche prostituta veniva a vedere chi eravate, cosa facevate? Sì, sì, avevamo due prostitute anche. E come le accoglievate? Sì. Le accoglievamo sempre bene, perché noi pensiamo che non era colpa loro, ma era colpa della storia che le avevo portate a fare questo. E qualcuna si è pentita sulla via della pecora perduta oppure... è soltanto stato un collo. Una ha lasciato questa, è tornata in famiglia a Dortmund. Nel frattempo quanti figli avete fatto? Negli anni sono passati. Adesso alla fine l'ultima figlia è nata nel 94, abbiamo 11 figli adesso, e 30 nipoti. Quindi altri 4 sono nati in Germania? Sono nati tutti a Roma, a dire la verità. Cioè vabbè, sono figli del periodo tedesco, ecco, chiamiamolo così. Sì, esatto, sì. E adesso cosa fate? Continuate questa operazione, diciamo, di recupero? Sì, certo. E non sono più ad Amburgo, io vivo adesso a Osnabrück e aiuto le parrocchie della Germania. Quindi lei ha messo a punto praticamente un modello, un modulo, e poi lo riproduce da altre parti? No, io faccio parte del cammino neocatecumenale. No, dico, già, quello che lei ha fatto, sì, ma quello che lei ha fatto, diciamo, la sua esperienza la porta in altri luoghi. Sì, esatto, sì. Lei cosa faceva prima di partire? Prima, diciamo, di questo incontro col Papa che poi l'ha mandato a fondare la pecora perduta, che faceva lei nella vita? Io sono venuto a Roma, ho studiato sia filosofia alla lateranense sia giurisprudenza alla statale, però non ho mai finito perché mi sono sposato, ho trovato la moglie e come lavoro io lavoravo in un'agenzia ippica, un lavoraggio. Già, quindi sarà sempre a contatto comunque col vizio, col peccato, perché è uno scommettitore. Con la malavita, sì. Con la malavita. Con la malavita e col peccato, sì. Ha conosciuto il lato oscuro della forza prima di incontrare il Papa. Certo, ma io ero lontano, io non credevo. Ha avuto una buona educazione, ma poi sono del 51, figlio del 68. Come sono sparpagliati gli 11 figli? Dove sono finiti? Come stanno? Dove li tenete? Cosa hanno preso? Allora, la mia prima figlia ha sposato un tedesco di Monaco e ha 12 figli. Ah beh, anche lei è dentro il cammino, anche lei? Sì, esatto. 12 figli. Il secondo figlio ha vissuto un tempo a Roma, ha sposato una italiana della Sardegna, ma dopo per le difficoltà di vivere, di trovare lavoro, è venuto e vive nella città dove viviamo noi, ad Osnabrück. Purtroppo, anche se lo desidera, non hanno figli. Ah beh. La terza figlia vive a Roma, sì, con 7 figli. 7. Di cui l'ultima è Down, la sindrome di Down. E siamo 19. E siamo, sì. Poi avanti. Il quarto figlio si chiama Paolo, vive anche nella città dove viviamo noi, a Osnabrück, e ha 6 figli. Ah, perfetto. L'ultimo è nato... Siamo a 25. 15 giorni fa. Siamo a 25, sono arrivato a 25. Poi? Il quinto figlio ha seguito le orme del padre, sì. Anche lui è un missionario laico, non è sposato e fa questo servizio nella regione dell'Umbria. E quanti figli? La sesta figlia. Questo è nessun poco, figlio, questo è nessun figlio ancora. Questo è mio figlio Francesco. Sì, ma sto facendo il conto dei nipoti, siamo fermi a 25 ancora. Sì. Questo mio figlio Francesco non è sposato, quindi non ha nipoti, fa il missionario qui in Italia. La sesta figlia si chiama Anna, vive a Chemnitz, sì. Karl Marxstadt, una volta si chiamava così, quando era Germania orientale, è sposata con un italiano che vive lì e ha avuto una figlia. A 26, siamo a 26 allora, 26 nipoti. Finiti? Dopo abbiamo un figlio che è sposato da spagnola, sì, che vive anche in Germania da noi, che ha 2 figli, 28. Si chiama Giovanni. 28. Sì. Poi abbiamo Miriam, sposata a Monaco di Baviera, 2 figlie. 30. Dopo Miriam, devo fare il calcolo perché dopo Miriam viene Simone. Simone si è sposato da poco e la moglie aspetta un bambino. Quindi quasi 31. Quasi 31. Ad agosto. Sì. Dopo Simone viene Esther. Che che si è sposata e aspetta un bambino. E quindi altri due in arrivo. Quindi diciamo 30 già fatti e due in arrivo. Siamo... tre in arrivo. Ah, tre in arrivo. Ah, sono... sì, tre quindi... in arrivo perché Anna, che ha avuto una figlia, è di nuovo incinta. Quindi, quindi diciamo che fra un annetto, come gli anni di Cristo, 33 nipoti. No, tra un annetto, entro giugno. Entro giugno 33 prossimo. Nipoti. Lei si è fermato, figli? Ci troviamo a Natale. Ho affittato una fattoria, perché altrimenti non c'è posto in nessuna casa per accogliere, diciamo, 52 persone. Senta, sono una cosa, ma quanto... solo figli e nipoti. Ma quanto le costa mantenere tutta questa famiglia? Perché è impegnativo, no, penso. Questa fattoria te la danno a un prezzo speciale, a 20 euro a persona al giorno. Vabbè, siete sempre 45, non è che proprio... siamo 50 persone. Ah, 50 persone, beh. Sì. Cioè, vi ci vuole un pullman per andare a fare una passeggiata. No, ma hanno tutti i pulmini, le mie, i miei figli. Vabbè, siete contenti, è un esempio strano, singolare. Comunque, dove passate voi, comunque, lasciate una traccia, se non altro lasciate dei figli. Ma di tutti questi figli e tutti questi nipoti, nessuno che ha preso una strada diversa, ha detto, no, a me non mi importa niente. Sono rimasti tutti dentro, diciamo, la... il recinto. Hanno avuto tutti i miei figli, hanno avuto tutti la loro crisi. Ma tutti? Alcuni anche con delle droghe leggere, tutti hanno avuto la loro crisi, naturalmente. E sono tutti ritornati a provare che cosa offre, che il cosa mondo. Offre il mondo, la vita. Cioè, anche diciamo, dopo si sono accorti. I peccati di tutti i tipi, quelli della carne, quelli dell'invidia, della sono ritornati tutti, diciamo, in seno al modello paterno, ecco. Io devo dire che non è opera nostra. Beh, certo. È una grazia che abbiamo ricevuto, ma sono tutti nella chiesa. Vabbè, credo, perché sei ben lì. Stai tranquilli. Beh, così. Adesso ne tornerà in Germania e li ritrova tutti, quindi passate un buon Natale, non posso che augurarvi un buon Natale, e rimpiangete i bei tempi della pecora smarrita o pecora perduta, e ritorneremo, spero, a sentirci quando il conto dei 33 sarà aumentato ancora, perché se va così, fra un annetto... ce ne saranno almeno altri 7-8 più, come minimo. Non lo sappiamo, noi siamo aperti alla vita. Ah, certo, quando vengono, ben vengono. Buon viaggio, a presto, ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci a lei. Passa il tempo ancora e con la cera squaglia una parte di me che se ti trova ti perde ancora per gli stessi impegni gloriosi che ho preso con me. Metterò il tuo nome tutte le volte che cambierà di nuovo da sempre ancora. Sembrerai la sola che battaglia con me. E così facendo noi di questo passo, malgrado il tempo passi ma nessuno invecchierà. Crespi e bianchi, noi bambini stanchi, arriveremo in fondo solo amandoci fra noi. Sempre ritornare in mille modi diversi e mai uguali a tutto quello che mi ha fatta vita. Un buco in testa permanente, sempre in un momento che non sarà propizio a quel gusto preciso ed a quel vizio che tanto amavo allora fortemente, ma non ora che non mi va. E così facendo questo passo, malgrado il tempo passi ma nessuno invecchierà. Crespi e bianchi, noi bambini stanchi, arriveremo in fondo solo amandoci fra noi. Scrudo incerto il tono ascendente delle voci che mi danno buongiorno non in pace, e so già avanti in quanti parlerete al mio documento. Anzi tempo preventivamente l'assemblaggio dell'ordigno in quale culo brillerà. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Come ha terminato il suo racconto, il missionario che stava pregando rimette la testa nel suo libro di preghiere e rientra nel suo mondo di meditazione. Però non poteva fare a meno di osservare un altro viaggiatore. Mi guardava con tono sarcastico, con una specie di sguardo e sorriso di commiserazione nei confronti del mio interlocutore, ma anche nei miei confronti, che l'ascoltavo attento, senza riderlo, senza criticarlo. Beh, adesso voglio capire cosa c'aveva da ridere questo signore di questo racconto di una famiglia così ispirata a valori pii e cristiani. Quindi lei ha un'esperienza universitaria lacerante di cui vuole liberarsi, mi sembra di aver capito. Abbastanza, sì, che voglio condividere. Cominciamo dall'inizio. Sì, era il 96, la facoltà di giurisprudenza. Premetto che non sono mai stato uno studente modello, quindi non voglio dare lezioni. Ad ogni modo si vociferava nell'ambiente che l'allora rettore di giurisprudenza fosse uno a cui piacevano i giovinotti. Vabbè, aveva delle diciamo inclinazioni in direzione del genere maschile. No, poteva averle come sua personale predisposizione, ma questo comportava diciamo un diverso atteggiamento nei confronti degli studenti. Ma in effetti era un po' eccessivo. Allora, intanto c'erano... Vediamo il contesto, qual è il contesto? Lei era un fuorisede? Tra l'altro io vengo da un posto, da questo posto c'erano stati prima di me degli altri studenti, che poi si sono laureati, che già comunque avevano conosciuto questa realtà. Quindi dal suo paese d'origine erano venuti altri studenti? Sì. Che tornando a casa, sì, ai fine settimana, dicevano, sì, bella la vita universitaria, però c'è un problema, questa è più o meno la sintesi. Esattamente. E avevano dettagliato questo problema, no? Scusi, ma l'avevano dettagliato il tipo di problema o si erano tenuti sul vago? Ma diciamo che uno di questi aveva vissuto per un periodo con il rettore, che tra l'altro ha vissuto proprio, convissuto, sì, che tra l'altro era un sacerdote moruxorio con rettore. Questo rettore di fatto, sì, era un sacerdote molto noto. Tra l'altro era rettore di giurisprudenza, quindi voglio dire, era già noto per questo. E ospitava i ragazzi nella sua canonica, come funzionava? Sì, ne aveva no, proprio a casa sua, ne aveva a turno, uno ne cambiava diciamo uno all'anno, due anni, dipende da quanto durava. Ma li ospitava così, nel senso, per una sorta di fraterno e cristiano senso di accoglienza, o poi ne usava diciamo anche le caratteristiche ergonomiche? Ma io credo proprio la seconda. Di fatto c'era questa cosa, insomma, si sapeva che potevi superare filosofia del diritto, comunque laurearti anche senza, però se eri un giovinotto di bella presenza che passava da quelle parti, che comunque incontrava questo rettore, conosceva questo rettore, poi era più, diciamo, era una via più facile per laurearti. E quella che si dice la spintarella. Beh, un aggettivo in questo caso che è veramente causato. Con una spintarella è tutto più facile. Esattamente. Ma il suo collega, diciamo compaesano, non provava un senso di mortificazione nel fatto di essersi sottoposto per lungo tempo, more uxorio con il prete, alla spintarella per ottenere il risultato? No, il collega in questione, c'erano diversi colleghi, ma il collega in questione credo che avesse delle affinità. Ah, quindi lui era con te? Vabbè, allora è una storia d'amore, un'altra storia, allora non c'è... Comunque cose successe 5-6 anni prima che arrivassi io. Poi quando sono arrivato io, due miei compagni di corso un giorno mi dissero, guarda, qui c'è questa possibilità, lui è molto disponibile, vieni a conoscerlo. Io qualcosa sapevo. Diciamo che il mercimonio era abbastanza noto, c'era una via agevolata che tutti conoscevano, bastava entrarci in contatto e si stabiliva. Esattamente. Sì, però esattamente. Una cosa devo dire, ma se questo avveniva già da 5 anni, ma più. Aveva una, diciamo, prorompenza inesauribile questo sacerdote, faccia una vita molto sana, perché facendo i conti quanti ne saranno passati di studenti per queste furche caudine? All'epoca il sacerdote aveva già più di 70 anni. Vabbè, ma allora, era diciamo un'azione tipo contemplativo, secondo me. Contemplativo fino a un certo punto. Allora, quando andai io... Va dettagliata la fattispecie. Quindi, ma ad esempio, avrei delle colleghe ragazze nella sua università? Sì, ma non c'erano, non andavano. Cioè, erano svantaggiate però a questo punto. Diciamo, avevano una corsia preferenziale in meno le ragazze. Esatto, avevano una corsia preferenziale in meno. Cioè, specularmente era l'opposto di quello che accade normalmente negli Atenei. Erano molto svantaggiate perché, tra l'altro, anche a filosofia, a istituzioni di Romano, mi pare, c'era una professoressa che era antifemminista, diciamo, quindi era molto svantaggiata all'epoca. Quindi una donna che odiava il femminismo e un prete che non considerava le donne come oggetto di attenzione. Assolutamente sì. Quindi andiamo alla fattispecie. Le è stato, diciamo, indicata la maniera per conoscere questo magnifico rettore, questo signore, questo titolare di cattedra? Sì, sì. Il mio, diciamo, compagno di università, quello più vicino a me, mi disse: guarda Francesco, ti presento donne, eccetera eccetera. Quindi faceva il ruffiano del prete, praticamente. Sì. Però non mi disse che lui già... quello che era successo fra di loro. Mi disse: guarda che lui è un tipo incline a questa cosa, tu sei bello, tu così, basta che... Io dico, sono ho cercato anch'io la scorciatoia. Ma forse lui, diciamo, era usurato in quel tipo di attività e gli ha detto: trovane un altro, perché mai con te... No, ma ne aveva, guardi. Io quando arrivai a casa sua, intanto trovai una palestra che lui, il sacerdote, aveva adibito per uno dei suoi ospiti. Una palestra, proprio, attrezzata. Gli aveva fatto proprio una palestra. C'era questo studente che viveva con lui da quasi un anno. Un culturista era, diciamo, una persona molto... La box, è una palestra di... c'è un sacco, mi pare fosse box. Si allenava a fare box questo ragazzo. Quindi ha attrezzato una casa, una bella casa, immagino, a questo punto. Oh, vabbè, adesso... perdoni, ma quando parliamo di cattolicesimo le case sono una loro esclusiva proprietà, quindi se puoi immaginare. Era bellissima. Questa palestra era una vera palestra, sì, in una stanza di questa grande casa, di questo don. E com'era arredata la casa? Era arredata tutta con mobili antichi. Lussuosamente arredata, sì. Assolutamente. Quindi un'alcova di lusso, praticamente. Però non era kitsch, aveva buon gusto sicuramente. Sì, sicuramente. È stato un grande personaggio del mondo della cultura, questo signore. Sì, sì, me lo immagino. C'erano anche opere d'arte, diciamo, a soggetto religioso, immagino di sì, arte sacra c'era. Sì, sì. Anche se io nella stanza dove mi ha ricevuto, no, era una grande sala con un grande tavolo, ma non c'erano queste... Beh, quello era lo stile francescano che ci stava, l'austerità e la mortificazione. Era la sala della mortificazione quella, sicuramente. Può darsi. Ma era chiaro già nell'area che lei andava lì come, diciamo, un pollo che si avvia verso il girarrosto, oppure era più sfumata? Io sono stato come sempre presuntuoso e leggero, nel senso che io sapevo che questo era incline, quindi abbiamo, tra l'altro, l'amico mi disse: basta che ti vede, no? Ma scusi, ma lei invece... sapeva che rischiava l'osso sacro andando in quel sacro luogo o no? No. Era sicuro? Pensavo che bastasse, sì. Bastasse sedurlo o un'occhiata, poi mi salvo, questo pensavo. Pensavo di sì, tra l'altro ero reduce da queste esperienze di miei compaesani, quindi già noti. Qui già sapeva esattamente quant'era lunga e dolorosa la via della salvezza con questo sacerdote. Io non mi resi conto finché, seduto di fianco a lui, non mi mise una mano sul liquide. Andò subito al sodo. Beh, iniziò a parlare. Cioè, le mise la mano sul pacco, tanto per essere chiari. No, sul pacco no. Un pochino più su. Spostare un palmo al di sopra della zona genitale. Sì. Sulla gamba. Allora... Come mise la mano lì, io mi alzai proprio immediatamente. Ma forse era un gesto di benedizione, magari, non l'ha interpretato male, no? Ma tra l'altro io ero reduce, io ho fatto un liceo classico dei preti, quindi sa esattamente come ci si comporta, certo. Spalle al muro, vai da soli, ma nel confessionale sempre chiuso, mai nella stanza del prete con la seggiolina e l'inginocchiatoio, è la base di chi studia dai preti, questo si sa. Beh, sapevo già che nel mondo cattolico purtroppo questa è una nota che è reale, no? Quella dell'omosessualità è una cosa, è così. Che in sé ci sta pure, vogliamo discriminare, che però vadano a, diciamo, infastidire i ragazzi non è proprio la cosa migliore, sembra la riserva dei balocchi, dovrebbero star lì loro a insegnare, a portare cultura. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Le mise la mano vicino alla zona sensibile e cosa disse? Io mi alzai, lui diventò rosso, paonato. Ma era presente il suo collega oppure erate soli? Era presente, lui sbarrò gli occhi perché proprio a dire che hai fatto una gran cazzata. Lui poi mi confidò di averlo baciato proprio. Che non era proprio il massimo, sarà stato sdentato, anziano, denti marci. Tra l'altro il donna aveva i tratti del sauromate, proprio classici. Quindi io mi alzai, ci fu questo momento di confusione, sì. Difficoltà, poi io salutai. Ma aveva l'abito talare, la tonaca, oppure era così in déshabillé con una tuta da ginnastica? No, era vestito da sacerdote con la giacca, il pantalone. In clergyman, sì, manteneva lo status. Elegante. E poi quindi, fatta questa cosa, capì che non era cosa, quindi poi io me ne andai da solo lasciando il mio amico lì con il don. Qualcuno alla fine, diciamo, la passione che lei ha scatenato ritraendosi E si sarà riversata tutta con impeto devastante sul suo amico, così impara a fare il ruffiano, naturalmente, certo. Ma guardi, arrivò il momento dell'esame di filosofia del diritto, sì, che era la materia, veramente l'unica materia sulla quale io non avevo bisogno di aiuto, perché sono sempre stato amante di questo. Sulla filosofia del diritto l'avrà interrogata in maniera molto precisa e profonda, immagino, certo. Nonostante la mia ignoranza conclamata, io feci un esame veramente buono. E lui mi disse le testuali parole: bravo, ma l'esame non te lo do. Mi disse letteralmente queste parole e mi bocciò. Ma ecco, aveva risposto bene, non c'era una commissione? No, era solo lui. Ah, ma ripeto, lui era rettore. Ma quindi poteva fare quello che voleva, plenipotenziario. Aveva la cattedra di filosofia del diritto, ma era rettore della facoltà. Quando lui disse in quel modo, io gli dissi, in quel modo del tutto spontaneo: nessuno è eterno. Cioè, non riuscì schiatti ad offenderlo. E lui che disse? Questo Don morì dopo un anno e qualche mese. Però c'è la vita eterna per lui, che discorsi. Sicuramente sì, quella per tutti, sicuramente sì. Allora, passerà un po' di anni in purgatorio, magari con dei supplizi demoniaci per espiare, diciamo, la sua lussura, però alla fine... Comunque io dovetti lasciare la facoltà. Sì. Ho dovuto lasciare la facoltà perché comunque... Lei non andava più avanti, avendo fatto il gran rifiuto, naturalmente. Non andavo... Sì, mi sono ammazzato da solo, praticamente. Andando da lui... Si è salvato l'osso sacro, però, oggi. Lei alla fine poi ha fatto regolari studi, immagino, no? Ma ho cambiato proprio del tutto, perché, ripeto, l'errore è stato mio, io già sapevo, non sarei dovuto andare. Era meglio che non andava. Ma lei sperava di cavarsela. Lei sperava di cavarsela così, con un'occhiatina, una tasta. Una volta entrati dalla porta, non è che si esce dalla finestra. Ma lui poi non cercava la relazione. Lui cercava proprio la relazione, cioè questa persona. Ah, voleva innamorarsi proprio. Esattamente, viveva delle lunghe relazioni. Voleva dei fidanzati, ma certo, mica. Sì, tant'è che poi fra quelli che sceglieva, il preferito viveva con lui a casa. Lui pensava a tutto, a tutti i fabbisogni economici, di studio. Vabbè, come diciamo un anziano signore che cerca delle mantenute. Voleva una mantenuta, voleva tenersi in casa. Sì, magari quello è più naturale come cosa. Anche se oggi guai a parlare male. Le vie del Signore sono infinite, aveva pensato, quindi la sua via era la via stretta, come dice André Gide, la porta stretta, e così. Poi andando avanti io feci presente poi questa cosa a dei sacerdoti, e hanno detto che sono tutte dicerie, naturalmente, calunnie. Guardi, fu tutto un discorso che durò per 4 anni, che portò a una sorta di scomunica. Praticamente alla fine, anche per altri fatti, non dico che mi fecero una bolla di scomunica, però per esempio mi impedirono di battezzare e tenere a battesimo mia nipote. Fu un momento lungo, anche se io non è che sono cattolico, ci mancherebbe, però mi hanno un po' fatto questa cosa. Quindi lui è stato spretato? Come? È stato spretato, No. Chi? Questo prete, no, lui è rimasto, diciamo, nella gloria degli altari. Ha avuto un funerale che nemmeno a Pertini l'abbiamo fatto un funerale. E lei invece è stato scomunicato per aver osato insinuare la terribile calunnia. Sì, sì. Io sono sempre stato un po' gnostico. All'epoca organizzai. La giustizia non è di questo mondo, è del Regno dei Cieli, quindi se ne faccio una ragione. No, io credo che la giustizia sia di questo mondo, non la vediamo, ma credo che sia di questo. Lui certo in vita, chi cerca gloria in vita, dal suo punto di vista uno può condividere, no, la vita se l'è goduta, perché dal suo punto di vista era come l'ape sul fiore, stava meglio di così non poteva stare, diciamo la verità. Se esistesse solo la vita, lei avrebbe perfettamente ragione. Però... Ma se casomai la vita è veramente solo una parentesi, per lì il discorso cambia. Comunque i miei amici si laurearono in tempi brevissimi, ci fu questo in particolare che si è laureato 4 anni, nemmeno 4 anni. Tutti gli altri si sono laureati, quindi abbiamo poi un sacco di avvocati che si sono laureati in questo modo. È una scelta. Lei si è laureato con più difficoltà, ma ha conservato l'integrità dei suoi lombi. Gli altri hanno subito. Ma mi perdoni, non è per conservare l'integrità, è che proprio io non riesco, non è una questione di. Lo so, adesso non ce la fa, mica. No, non è possibile. Anche se fosse stato un giovane mormone belli, ha visto i mormoni sì, come sono belli questi ragazzi. Guardi, io non sarei riuscito lo stesso. Io non riesco a mangiare il cervello, il fegato e l'interiore. È più forte di me. E ognuno ha i suoi limiti. Lei la carne di porco non gli piace. Che ci posso fare? Vabbè, la saluto, buon viaggio, è stato molto divertente, interessante e direi anche da un certo punto di vista edificante. Buon viaggio. A lei, la saluto. Come tell me your story to unload your glorious grief. You are the valet of honor and I am the thief. Don't ever mention stains that you left on my track. How from a beautiful girl I became someone ruined and wrecked. It was all in your back, all in your back. So I spin in the dance of your absence and put on a show. But why do I smile, baby? You of all people should know. The one that you love. Don't need a friend now.